Ya man laisa kamitli shay, o colui del quale nessuna realtà possiede la somiglianza, wa huwa samiul basir, egli è colui il quale tutto ode e tutto vede.